Ah, io infatti mi metti su, giù da bravo. E poi arriverà. C'è qualcuno qua? Eia, ciao Gian, buonasera. Gianni. Eia, eia. Bella tempo, buonasera. Oia. Mi stavo medicando al piede. Oia. Tutto spellato si sta, oi, com'è? In che condizioni è Natale? Come mai ancora nessuno Natale? Oia. Poco fa, dove sei? Con il baracchino acceso non è entrato nessuno. Ma spiega il volume, se non ti intendo. Ho detto, che stavo ascoltando. Una bella giusta di tutta questa. Ehi, scatto contratto del banco, mamma. Aspetta un attimo, devo andare al CTH. Tutto. Ehi. Scusi, Gianni, ci sei? Io ci sono, l'appello. Fai l'appello, dai. La tapiniana, ci sei? Marcolino Condo, ci sei? Claudio. Oggi sono tutti i gatti del tappo. E allora? Non spengo il gatto. A pranzare è troppo presto, no? Sì, quest'ora a pranzo. Magari non ha sentito nessuno e allora si è preparato a mangiare e sta mangiando. E io se ne è uscito perché se poi arriva la pinciata vuoi, la zia. Oh, yeah. Ma hai visto la quel film della Trinciano questo che prende pagliarone e li faceva volare? Così la zia. Se si vede a dire con Zia Marconi. Baramarrucura. Di quelle di campagna, di quelle ragazze che si arrangiano a fare di tutto, capito? Sono due di campagna che riescono a fare tutto quanto, sopra il peggio di rimasci. La ragazzona. Se non è già andata, Hitler, cazzo. E passami qua, io me la sto immaginando. Passami qui, sei buono. Idiota. Hai, sei un pigrone, passami qua. Cerca di muoverti, darti una mossa. E allora, più slavone. Che sfida. Però dai, ti aiutare con che cose, di piazza lo scaldabagno, mi fa risparmiare su, via. Ehi, già, già, dai, che va bene, non c'è altri mai prima. Ha fatto l'impianto di casa a norma. A norma, capito? Si è fatto l'impianto a norma. Ed è bene. Che non sa mai bene, ma come Andrea Fiù? Andrea Fiù è sempre così, anche se non faceva tutto, andava sempre a tanto. A stare fermo andava avanti. Ma chi è Andrea Fiù? Quello che c'era la croce blu? No, uno dei selezionati a te. L'hanno conosco. Lo spiegava sempre andando e tornando, non si stimava mai. Mio padre era così, se non poi prendeva le figlie, dopo due giorni cominciava, questa mattonella si muove, prendeva, rigava tutto, metteva collante, cosa si vuole, e attaccava bene, era aggiustata, poi prendeva, vedeva un'altra cosa, l'altro non cercava più proprio il lavoro, credo fosse di uno spigolo rotto, cosa, lo ripristinava, lo faceva, e aggiustava mobile, faceva le iniezioni al tavolo con l'antico che ci avevamo perché era andato in tardi, faceva le iniezioni con la nafta per farlo grippare. E dopo l'aveva tutto quanto restaurato lui, tutto quanto l'aveva stuccato, fatto, tutto riverdicciato, ma era uscito bene. Infatti lo voleva mia sorella quel tavolo, un cacchio l'abbiamo dato. Abbiamo venduto tutti i mobili e divisi su. Quel tavolo valeva un bel. E allora, sotto, non so se ce l'hai presente, aveva praticamente le zampe del tavolo, non erano normali come le altre, e facevano a disegno, c'era proprio un disegno a cerchio, capito, alla fine. E lì in Italia avevano buccato tutto il legno. Allora, cosa fate? Mio padre, con un appetto che va via, faceva l'iniezione e poi gli metteva un puntino col pennarello per vedere dove l'aveva fatto. Cioè, ha pintato, l'ha fatto tutto grande, dopo l'ha stuccato e tutto quanto che ho cominciato a era più trasparente. Ma sai, capisci tu, nuovo sembrava. Si arrangiava, non è che fosse, lui si appintava, gli piaceva fare. C'è gente che nasce così, tipo Antonio, quel mio amico, quello si è fatto casa, le fondamenta, ha chiamato solo per fare il tetto, tutto l'impianto elettrico, i bagni, le mattonelle, tutto è cosa buca. Tutto l'impianto elettrico, delle luci che vanno dal viale alla casa, tutto lui, con un timer si accende a una certa ora, si spegne a una certa ora, cioè ha fatto tutto l'impianto elettrico, idraulico, i bagni, si è messo il canto Marcomello e Valentino di quelle belle, tutto fatto da lui, senza nessun aiuto. Piano piano se l'ha fatta, prima si è preso la ruspa dalla vita, si è fatto prestare e ha fatto le fondamenta e poi ha cominciato a costruire. Diceva la moglie sempre che lui non esisteva, come tornava dal lavoro la camagna andava subito a fare un pezzo di lavoro, capito? A pezzo si è fatto una casa che sarà al minimo di 400 metri quadri, c'ha tre piani, enorme, c'ha un bel di bagni, sembra un albergo, non una casa, c'ha un bel di bagni, c'ha lavatoio, c'ha saloni enormi, che io l'ho vista, abbiamo fatto la divinata, no, quando l'ha finita, l'ha invitata, abbiamo fatto la divinata, non era finita ancora del tutto, però il gredo l'aveva finito, là, ci stava già abitando, e abbiamo fatto questa divinata insieme con Monica, poi è salita Caterina, con la gatta, a trovarci, insomma, è praticamente... fa tutto, io te lo ricordi a tutti. Non lui lavora a mano. Vabbè, comunque si arrangia a fare tutto. Ha fatto un po' di travagli, dico, e tu pensa che una volta si è fermato il trattore, non andava, il padre disperato, toccate c'era la vendemmia, siccome lui ci aveva la vigna giù e doveva salire su l'uva, capito? La caricava là sul trattore col carrello, poi la stava di sopra e sopra la via la macina che macinava l'uva, no? Di quella manovella all'inizio, poi gli aveva messo il motore. E dovevi salire sopra questo reato che c'era e cominciare a girare la manovra, loro buttavano e tu giravi e scendeva il mostro, capito? Poi fatto sta cazzo che funzionava il trattore e ha visto, stavo sul manuetto, buco il trattore, faccio giù subito. Problemi ci sono, dopo lo guardo io, cazzo ha pigliato da dibuttare tutto il motore, l'aveva fatto il motore, tutto lui solo. A tutto quanto le fasce, le giambate, tutto e la guarnizione della testata, i pistoni, tutto quanto l'ho rifatta nuovo perché c'erano tanti anni questo trattore, era Carraro, una cosa del genere, e un trattorino lì, non era grande, ma era piccolino, però tirava il carrello con le cassette per salire su, andava bene. Già me lo ricordo quello che aveva detto lui, non prendeva tuo fratello per arare cose. Ma voi ci avevate cazzo da... avevate dei cani che erano buonissimi, cani. Poi mi ammazzo, ma mette sempre a mamma mia, mi dice, già, vedi un attimino, ha mi rubito un cacco. E tu gli dici, no, che va bene anche c'è mia asta, cosa, a me non me ne dà già, non me ne dà di cacchi, che paura. Oh Maria, ma la qua mi chiama ciao, bene, bene, ti dico una cosa. Doia, poverina. Ma questa ce l'ha voluta uscire. Sì, ma anche alla caricabola che è chiamata a capitare di banco. Però se si mangiava di banco, andava la giustizia. Cazzo, se ci ho capitato io, si è aperta la giustizia di banco. Sì, Natalia. Ma sai cosa ti dico? Un po' di notte, un po' di drone. A me una signora, una nostra cliente, ci ha detto che quando andavano a passeggiare con marito, che era diabetico, ella ci guidava un gelato e doveva fare un gelatino al marito come tre pizzini. Li guidava la parte di sotto, di un buono e li prendeva un gelatino. Tanto per gustarlo, no? Dicevo che già se aveva saputo, lo sai che anche prima mi ha dato il gelato, e tanto da lui è morto di lì giunto un tumore, è morto di tumore, un po' tempo ce n'è andato. Per fare l'insulina. E perché a me non è successo la stessa cosa? Eppure io ho visto che non la facevo, facevo diete e cose del genere, eppure sono passato la stessa insulina, perché magari qualche cosa in più la mangiavo di quello che mi dicevano e mi ha fottuto l'uva a testa. E ma tanto dalla fastidia si passa a fare l'insulina, andata lì così, non vedo da roba. Lui a me mi ha detto, dottore, che se mangio di meno, mi toglie sia l'insulina sia la pastiglia, perché il mio diabete la pasta. Se io riesco a mangiare poco a poco, ma non ce la faccio la tarina. Poco che torna a sacco da travaglia affamato, come ti fai a casa di travaglia? Mangio mezzo panino. Mi mangio l'insalata, una fettina, non è che mangio chissà cosa. Beh, purtroppo a me mi sale se mangio una pizza per dire, basta ai pizzi. E se sai io di chi d'usacco, se non è pieno non sta di più. Sempre senza biscotti, l'altro giorno mi ho messo 4 biscotti, che mi ha messo dalla glicemia anche con zecca, 4 biscotti, per non dire sempre che sto a solo a bello il latte, perché io mi faccio un'insulina, quindi dovrei anche mangiare, e dice metti le fette biscottate, non mi piace, dico che rimango a fare, non è una cosa che mi attira a me, fai medicina a me, le fette biscottate che sono coreane. Fa dal dolce dice al padre, papà sì, non ti preoccupare. Ma questo padre secondo me non viene a Sassa di Guantiso. Sarà fatto di donna, fatto da me, questi che butti da lei. Non lo vedi che tu parli che sto prendendo con la bandina 00 e li butti mi a lei, vuoi fare che diventa tutto che la palla. No, questo qua lo metti in frigo, no, a salita. Dopo per dire 2-3 giorni lo metti nel forno a microonde, esce come se fosse appena fatto. Non si capisce che fare in frigo. Ma se io, vabbè, lo compro qua, giuno, e non lo compro, è ancora caldo. Io ti rubo il frigorifero, è ancora caldo, infatti lo compro. Come lo togli tu, senti questo profumo del pane, ma un profumo che era da molto che non sentivo. E sarà fatto di cose, non si guardi anni prima, in casa, al pane, useranno una farina diversa, perché in casa adesso lo stanno facendo con la farina per sé. E mi ha detto, questi fanno un caso di qualità, una voce azzurra, ma che si diventa adesso che era valla? Dice che lo fanno con la... comunque con il lievito madre, una cosa del genere mi ha detto con le voci. Ma se ne mangi un pezzo ti viene pure le maglie compagnie e poi non lo puoi superare, me ne devi più dare la mollica. Allora la mollica sai cosa vuoi? La muovo in mezzo a un pasto di terra se la mangia e io ce l'ho quel vizio. Io la tolgo la mollica sempre, ma per cosa? Per a chi so come te passi su gatto di rubare macchina. La matriglia rubata, ma che tu è buono? È proprio profumato, quando lo metti nel forno a microonde fa un profumo come se fosse appena fatto. Prova una tagliata, poi mi devi dire vero e sì, infatti, sto fatto, ho lievito male l'ho fatto, quel panettone, non per il tempo. Se no ce la fai, andare via giù, ci sei sotto casa, quel negozio che c'è, la bottega del gusto, quello lì c'ha il pane, solo il suo pane c'ha, non ne ha altro. C'ha anche il pane di quello integrale, pagnotte, di tutti e di più, però i panini, io per i panini sono troppo buoni. Avevi dai a me di altro, pane tondo. A otto, io ho capito, quello che si portava nei pastori e in vecchia nata se lo facevano a fette quando andavano lontano da casa, stavano 2-3 giorni fuori, perché dice che è un pane che non diventa duro, capito? È buono. Sì, vabbè, che diventava, ma chi sei farina di zinco, però? Vedi la treccia, c'è farina di zinco. Vabbè. E trigo buono al punto, lasci. Ma comunque, quello lì, guarda, ti dico che è un pane meraviglioso, guarda. Non ce n'è. E a chi si è fatto pure la matica, cura il mio mare. Scagliola, aiuto, non è nessuno, no, ma io qui, devo entrare, come stavo dicendo, sì, in effetti adesso non ce ne sono più che ci mettono il cuore facendo il lavoro, ma industrialmente, no, c'è anche Oggiano che lo fa buono il pane, ma non è a quelli figli, si sente che è industriale, anche le paste fa buono Oggiano. Fanno tante quantità, non mi conviene a farlo come lo fanno gli azzurri, che devono servire tante vesti e quindi devono fare per utilizzare i panni. Quindi come chi è pronto, forma, capito? Però è fatto con lievito di vita, per farlo lievitare, usa una lievito di vita. Da lievito di pane, dove è pagato che... serve più quello bello croccante, sto dicendo che anche se le fritti, per dire 10, 2 li usi e gli altri li metti in fritta, e domani è come se ce li dai in casa per un po'. Anche fatto la farina buona, anche fatto la farina buona, no? Usiamo la farina per due, farina 00, al massimo. Spera, Tarico, ma si... Santa Pignara, cosa stai facendo? Non è ubriacone Franco. Santa Pignara, mia, è andato con la sua mammina al città-mercato a fare la spesa, oppure... Poi c'è la zia, la pincia tua. Ma oggi non è tra nessuno, mi pare che lo sabato ho chiuso. Ora c'è stamattina che sono anche caduto. Cazzo, ero lontano con il cane. C'era un cane in lontananza col padrone. Oh, da lontano, siccome c'era una femmina vicino a questo cane, da lontano è venuto, era slegato, cazzo, questo cane grosso, un settore di quelli grossi. Era slegato, che ha tenuto correndo verso Tyson, io ho messo la gamba perché Tyson gli stava saltando addosso per non morsicarlo, che ha tenuto un brinco Tyson, l'ha avuto un mosso e questo qui stava andando di nuovo a morsicarlo, che te lo mi ha fatto cadere. Cazzo, il ristorante di Ernesto sta vedendo il comune. Scusate, mi vedo il ristorante Ernesto e altri comuni comunali. Si è è una dispensa ignorante, dai, mi ha limitato come mi cacciava, ma se non si può fare per far scappare la gente. Cattermesso era uno dei ristoranti più rinomati della zona di Plattamona e andavano qui di turisti a mangiare. Cattermesso quanto guadagnava per me, era uno dei più rinomati. Ergo, mi ha limitato e è rimasto sgarrato di Cava, anche sempre sgarrato, mi metto piccato per qui. Io quando sono sceso a fare quel sovralluogo con l'architetto, era chiuso lo stesso, e mi ha detto l'architetto, ma guarda, me l'hanno presa per poverato, cazzo, e adesso guarda. Eia, tutte le cose belle le hanno tolte, capito? Hanno chiuso tutte le strade, hanno ristretto tutto, non ci sono più parcheggi, no, sono cazzo, sono fatti, non l'hanno compreso, vivo. Vogliono allontanare le persone, capito? Non sanno come più fare, invece di ampliare i parcheggi per attirare il turismo, per avere i parcheggi, perché far sì che le spiagge siano affollate di gente, niente, non è una fuffi tutta. Io avrei ripristinato tutto, rimesso ristoranti, rifatto tutto come te la prima, che dove la paga ti lamenti, tutto pieno di ieti, chivi, pani, da cui verani do. Punta bianca eccetera eccetera e tutte queste cose qua. Prima c'erano i ristoranti anche lì, dopo mi hanno buttato tutto giù con la busta, io non sono passato, ero contato, da lui fa stava buttando giù tutti i casotti e questa qua mi dice no, ci sono i miei documenti, aspetti, non posso aspettare signora, io ho l'ordine di buttare giù. Anche alberghi avrei fatto per invogliare i turisti a venire, altro che non solo di ampliare. Cazzo, tutti in comune vuole pigliare dei mosci di Cagliari. Ma secondo me c'è di sotto qualche cosa, ci avranno degli interessi, magari di altre persone, magari a non fare aprire lì, magari per andare a Porto Torres a mangiare, capito? Ci sono tante cose che noi non sappiamo che magari sotto sotto si migliaia bustare. Io mi ricordo che vedevo a Plattamona prima, quando passeggiava e cose, c'erano i giochi di società, facevano l'acqua, tutte queste cose qua, surf, di tutte di più. Ah, ma non è più brutta, no? La gente se ne sta tutta scappando, cosa c'è? Prima c'erano i parcheggi, c'era tutto, adesso non è più brutta. Se ci sono i parcheggi te li fanno pagare, uno va a pagare per andare al mare, ma stiamo scherzando, che è un benedetto. Infatti, non capisco come te lo permettano di detto che sì. Ma ti fanno pagare anche il parcheggio adesso, quindi cosa fanno le macchine? Le macchine parcheggiano fuori nella strada e prendono col cavatrice, li mettono le multe, capito? È un casino. Devi per forza pagare, se non paghi rischi che ti pigliano la macchina col cavatrice. Cosa? È tornata con col cane. Ah, è la fascia. E allora? Spero porta, o se la anche tu adesso. No, anche io la mattina l'ho portata. La sera l'ho portata lì. Ah, scappa. Io oggi è venuto Gianfranco, ma trova. Oh, yeah. C'era una di chi non lo vedi. E chi Gianfranco? Ma se mi serve il numero di quello. Io già ce l'ho. Cavagava. E Gianfranco, però è venuto qui, è venuto con questo suo amico, l'ha suonato, perché già devo andare, che dobbiamo fare la commissione, pensavo venisse più tardi, l'ha affannato. E invece ha fatto, bevendoci il caffè e andava. Mandalo via WhatsApp il numero che mi serve. Che ha buscato un servitore coreano e di quelli stati praticamente che sono tenuti di emissioni. Sono una cazzata. E non è un tonnello confuso. Ah. E vabbè. Io chiedo prima a lui se vuole, io te lo do, non c'è problema. Però senza il suo permesso non lo vedrà nessuno. Non perché non mi fidi di te, non accadere. Perché magari lui non vuole, non lo so, io adesso te lo chiedo, dico, ma magari non ti vuole parlare, non posso dare il numero, e invece sì, te lo so. Natali non mi risponde, lo sto chiamando ma non risponde, deve essere sta facendo qualcosa, ho entrato in servizio, no, non lo so. E lui adesso sta facendo servizio ambulato con soccorso sabato, già lo sa, e quindi... Ah, perché tu pensi che lo stia vendendo? Ah. Già lo so, già lo so, non si sente più nulla. Infatti, io ho ricevuto il donaggio qui, ma ho dato tutto venduto, tutto l'altro. Uno l'ho regalato e l'altro venduto. Adesso c'hanno un nuovo modo di emissione tutti. E si che va a vendere di più sono stati i primi che sono andati, che si sono andati. Soldi, ricevitori e cose varie. Ma... E erano rimasti solo uno e basta, erano rimasti, tutti gli altri si vivono già più. Ah, oggi sono tutti morti, noi due giorni, mi sembra, soldi e sconsolati. E io fra poco, che adesso, fra poco, aspetta che hanno suonato. Natale, ti lascio che...